regole nuove sulla prescrizione. Il Presidente del Consiglio ai sindacati, loro in piazza, noi creiamo lavoro, la CISL, non abbiamo fatto sciopero neanche con Monti, la UIL, pronti a revocare se si riapre il dialogo. Il 16% delle famiglie non è in grado di garantire ai figli due pasti dignitosi al giorno, l'UNICEF, dai paesi poveri siamo tornati ad occuparci di luoghi come l'Italia. L'addio ufficiale di Fernando Alonso, che lascia la Ferrari e ringrazia tutti i tifosi, alla guida della Rossa arriva Vettel, il sogno della mia vita, dice. Il viceministro Morando, lavoriamo ad un intervento sul canone Rai, intanto azienda nel caos con il CDA che vota il ricorso contro i tagli del governo, che è il suo azionista. Segnali di ripartenza del mercato immobiliare, le compravendite crescono del 3,6% a Firenze, più 22, più 11 a Roma, bene anche Bologna e Milano. Nella capitale è eseguito lo sfratto del teatro Eliseo, timori per il futuro dei lavoratori, sembra che l'acquirente sia Luca Barbareschi, lo intervisteremo tra poco. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare in diretta, come sempre, c'è il 349-238-6666. Andate sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure scriveteci, effettogiorno@radio24.it. In apertura, dunque, il lutto cittadino a Casale Monferrato, manifestazione spontanea dopo la sentenza di ieri della Cassazione, che ha giudicato prescritto il reato di disastro ambientale nel processo Eternit sulle morti per amianto. A Casale Monferrato si trova Filomena Greco. Filomena, buongiorno, qual è la situazione? Sì, buongiorno Simone. Come dicevi tu, Casale effettivamente questa mattina si è svegliata ed è scesa in piazza, in corteo, con i confaloni alla fascia tricolore del sindaco della cittadina, Titti Palazzetti, e dei primi cittadini del comune limitrofi, con la gente comune in piazza, con i ragazzi degli istituti superiori che si sono mobilitati nell'arco di un'ora questa mattina per scendere in piazza, mandando i loro rappresentanti di classe. Una manifestazione spontanea, perché a Casale il dramma dell'amianto effettivamente è un po' cosa di tutti. Ogni anno soltanto in questa zona muoiono più di 50 persone per le gravissime patologie scatenate proprio dalla contaminazione ambientale dell'amianto, che ha tempi di smaltimento molto molto lunghi e quindi tempi di incidenza sulla salute delle persone altrettanto lunghi. È tanta l'amarezza, le lacrime, il disappunto delle persone con cui ho parlato per la sentenza della Cassazione di ieri, che ha annullato quella condanna a 18 anni per Schmidani a capo dell'Eternit S.p.A. Il reato di disastro ambientale dunque è stato considerato dai giudici della Corte Suprema prescritto. Il sindaco della cittadina Palazzetti ha firmato questa mattina un'ordinanza per il lutto cittadino, molti negozi durante la giornata manterranno le saracinesche abbassate. Qui la fabbrica dell'Eternit, che ha chiuso nell'86, se la ricordano un po' tutti, Assunta Prato, che è una delle animatrici delle associazioni familiari delle vittime di amianto, mi ha raccontato: beh, sarebbe stato necessario far vedere come nell'86 hanno lasciato la fabbrica con l'amianto a cielo aperto, le finestre rotte, per capire che effettivamente le responsabilità di Schmidani effettivamente non finivano lì con la chiusura della fabbrica. Insomma. Ascolta, Filomena, tu, e ne abbiamo già parlato anche nel lancio, reato prescritto per quanto riguarda il disastro ambientale, questo in realtà non esclude che si apra un altro filone di inchieste, soprattutto processuale? Sì, assolutamente no, anzi ieri ne ha parlato il sostituto procuratore Raffaele Guarinello, che dagli anni 2000 indaga sostanzialmente sulle morti d'amianto a Casale, non solo a Casale, in altre quattro realtà italiane dove Eternit S.p.A. aveva i suoi stabilimenti in passato. La cosa verso cui si va da un punto di vista giudiziario è questa, cioè verso un'indagine a cui sta lavorando Raffaele Guarinello, un'indagine per omicidio doloso, quindi le morti d'amianto diventano quelle il reato e non più il disastro ambientale, come invece è stato in questa prima fase di indagini e di sentenze. Insomma, questo è quello che dovremmo aspettarci, immagino, da un punto di vista, insomma, giudiziario. Io intanto ti ringrazio, grazie a Filomena Greco per questa corrispondenza, e più avanti sentiremo proprio appunto Titti Palazzetti, che è il sindaco di Casale Monferrato. Tutto questo nella seconda parte della trasmissione. Anche su questo tema stamattina è intervenuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che però ha parlato anche di sciopero e del confronto duro con i sindacati. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, il Premier Matteo Renzi non ci sta ed interviene proprio sulla sentenza Eternit. Il governo cambierà i tempi della prescrizione, quindi le regole sulle scadenze dei reati. Ci sono due modi di concepire le cose, dice Renzi: o quella vicenda non è reato, oppure se è reato ma è prescritto bisogna cambiare le regole. Non è possibile che ci siano delle regole che con il tempo fanno saltare il bisogno di giustizia. Mi colpiscono, prosegue poi Renzi, quelle madri, quelle vedove e quelle figlie che credono nella giustizia più di quanto talvolta ci crede un servitore dello Stato e continuano a combattere. Non manca poi il Premier di rispondere ai sindacati sul Jobs Act. Non mi preoccupo di far scioperare le persone, dice Renzi polemico, ma di farle lavorare. Anziché passare il tempo ad inventarsi ragioni per fare scioperi, mi preoccupo di creare posti di lavoro, e c'è ancora tantissimo da fare. Che il Jobs Act tolga dei diritti ai lavoratori è la più grande opera di fantasy che abbia mai sentito. Pronti infine i decreti attuativi della delega al lavoro, promette Renzi, arriveranno nei primi 30 giorni dall'entrata in vigore. Saremo rapidissimi. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti, e gli aggiornamenti arrivano anche da parte sindacale. Il problema di Renzi è che dialoga soltanto con chi gli dà ragione, risponde così Susanna Camusso alle parole del Premier sui sindacati. La numero uno della CGIL ribadisce il giudizio negativo sulle politiche economiche del governo. Se l'esecutivo volesse creare posti di lavoro, dice Camusso, non distribuirebbe dei fondi a pioggia alle imprese ma li vincolerebbe alle assunzioni. Nonostante il clima di scontro, intanto dal segretario generale designato della UIL, Barbagallo, arriva un'apertura sullo sciopero generale proclamato assieme alla CGIL per il 12 dicembre. Se il governo si siede e ci dà delle risposte, c'è sempre tempo fino a quando sarà il momento di revocare lo sciopero. Renzi farebbe bene a distinguere: lo sciopero del pubblico impiego ha un obiettivo molto chiaro, il rinnovo del contratto, sostiene invece Anna Maria Furlan, che ribadisce il no della CISL allo sciopero generale. Non lo avevamo fatto nemmeno ai tempi delle manovre lacrime e sangue del governo Monti. Non possiamo avere pesi diversi a seconda di chi è al governo, spiega la numero uno del sindacato di Via Po. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I segnali dall'economia: confermata la debolezza oggi della produzione industriale, sono stati diffusi i dati questa mattina dall'Istat, il calo, e adesso ve lo recuperiamo, dovrebbe essere intorno all'1,5%, e però arrivano buoni segnali invece dal mercato immobiliare. Sono segnali che ci parlano di una crescita del mercato, delle transazioni del 3,6% nel terzo trimestre del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013, con picchi particolarmente forti nelle grandi città: un più 22% per Firenze, un più 18% per Bologna, un più 11% per Roma, Milano che si conferma in positivo, più 6,8%. Abbiamo in studio con noi Paola Dezza del Sole 24 Ore. Allora Paola, a cosa possiamo attribuire questo miglioramento? Ma diciamo che questo miglioramento dipende da una serie di variabili. Innanzitutto la discesa dei prezzi: ormai siamo a un meno 30% dall'inizio della crisi, facendo una media su tutto il territorio italiano, e questo chiaramente conta nel momento in cui si deve scegliere di acquistare casa. Si contratta ancora molto, gli sconti sono abbastanza ampi, ben superiori al 10%, quindi c'è un margine interessante. L'imposta, quindi, probabilmente Paola, in termini di valore, in realtà i valori saranno comunque piuttosto bassi, no? Sì, sono scesi decisamente. Quindi per chi è già proprietario di casa questo è stato chiaramente penalizzante, perché si trova con un valore inferiore. Però per chi deve acquistare, la discesa dei prezzi è un segnale positivo. L'imposta di registro è scesa con l'inizio dell'anno dal 2 al 3% per la prima casa, anche questo conta nel momento in cui si sceglie di acquistare. Ma soprattutto, visto che il mercato residenziale è fatto di acquisto di prima casa per sostituzione, quindi per cercare spesso una casa più grande, anche il gap tra quanto io guadagno vendendo la mia casa piccola e quanto devo andare a spendere per acquistare una casa più grande si è ridotto, quindi alla fine la mia spesa è inferiore in maniera proporzionale. Grazie a Paola Dezza del Sole 24 Ore per questi chiarimenti e questi aggiornamenti. Abbiamo parlato in apertura della vicenda Eternit. Su questo tema è intervenuto stamattina il ministro dell'Ambiente Galletti, ospite di Giovanni Minoli Mix 24. Ha toccato anche il tema del dissesto idrogeologico e delle risorse bloccate. Partiamo proprio da qua, nel sentire questo brano dell'intervista e dal perché i lavori sono fermi. Sono bloccati da un una serie di cose. La prima è che noi in questo paese per troppo tempo abbiamo creduto che molte regole in campo ambientale tutelassero l'ambiente. Non è così, troppe regole finiscono alla fine per impedire di fare quelle opere che sono necessarie per la tutela dell'ambiente. Ecco, ma Ministro Galletti mi dice, scusi, però mi dice come farete a ottenere che le regioni trasformino i soldi che ci sono e che sono fermi in cantieri? L'abbiamo fatto anche con un'altra norma, che è questa nello Sblocca Italia. Abbiamo detto, scusate, ma se ci sono dei fondi destinati a opere che sappiamo che hanno ancora tempi lunghi, perché ad esempio non c'è la progettazione e quindi è ancora tutta da progettare, eccetera, noi definanziamo quegli interventi per andare a finanziare quelli che sono a uno stato più avanzato. Ieri la Cassazione si è pronunciata sul processo Eternit, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello. Lei ha un giudizio su questa sentenza? Una grande tristezza, le sono sincero. Io ho incontrato poche settimane fa il sindaco di Casal Monferrato, abbiamo avuto un lungo colloquio, siamo anche intervenuti con lo Sblocca Italia per la rimozione dell'amianto in quel comune in via straordinaria. Guardi che lì il lavoro è ancora lungo. Così dunque Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente, a Giovanni Minoli. Cambiamo decisamente argomento perché stamattina è arrivato l'addio ufficiale di Alonso alla Ferrari e l'arrivo ufficiale di Sebastian Vettel. Dario Ricci, eccoci. Sì Simone, hai detto bene, è stato ufficializzato quello che ormai era nell'aria e noto già da qualche settimana, l'addio di Alonso, 44 podi, 11 vittorie, due mondiali sfumati all'ultima gara, insomma è stato un grande amore quello tra l'Iberico e la Rossa, e però anche con questo grande rimpianto, quel titolo che è sfumato e poi un rapporto che ormai si era logorato dall'addio prima di Domenicali, poi di Montezemolo. La Ferrari di Alonso non c'era più, non sappiamo ancora quella che ci sarà in futuro, ma quella di Alonso non c'era più. Allora Dario, arriva Sebastian Vettel, quattro campionati del mondo vinti, e però come abbiamo visto con Alonso non è il palmarès del pilota che fa Bravo, ecco, mi dispiace di dover dare questa notizia, non è detto che dal prossimo anno la Ferrari torni a vincere, il percorso è sicuramente più lungo e Vettel probabilmente, ed è quello che ci auguriamo, dovrà ripercorrere tutto un periodo di iniziazione, speriamo non molto lungo, così come un altro tedesco ha fatto a Maranello prima di lui, e quel nome era quello di Michael Schumacher. Grazie al nostro Dario Ricci per questo aggiornamento da un mondo, scusate il contrasto, da un mondo dorato e di contratti milionari passiamo a parlare di tutt'altro argomento. Solidarietà, una parola che tenemos la sospecha che inconscientemente la queremos sacar del diccionario. Solidarietà, una parola che dovremmo cercare sul dizionario, battuta accolta da applausi, l'avete sentita, di Papa Francesco che ha tenuto il suo discorso questa mattina al congresso della FAO a Roma con un appello contro la fame nel mondo. Le nostre società, ha detto, sono caratterizzate da un crescente individualismo e dalla divisione. Questo finisce col privare i più deboli di una vita degna e con il provocare rivolte contro le istituzioni. E poi l'appello, mercato e speculazione, non ostacolino la lotta alla fame. E nel 25esimo della giornata ONU per i diritti dell'infanzia si scopre che anche in Italia per molti bambini due pasti al giorno sono un miraggio. Più del 16% delle famiglie con bambini, una volta ogni due giorni, non è in grado di garantire ai figli un pasto sostanzioso. Valentina Furlanetto ha sentito il portavoce UNICEF in Italia, Andrea Iacomini. UNICEF si è occupata dell'Italia nel dopoguerra, quando eravamo distrutti dalle guerre mondiali, per cercare di sostenere i paesi che erano stati coinvolti. Poi abbiamo cominciato a occuparci dei paesi in via di sviluppo. Oggi, purtroppo, lo dico, organizzazioni internazionali come la nostra sono tornate a occuparsi di paesi come l'Italia, come la Grecia, quelli che sono definiti in generale paesi ricchi, dove purtroppo si registrano tassi pari al 17%, quasi il 17% di bambini che vivono in famiglie in condizioni di povertà relativa. Parliamo di bambini italiani, cioè qui c'è un numero praticamente che riguarda i bambini italiani che vivono in condizioni di povertà relativa, vivono in famiglie dove purtroppo purtroppo fanno un pasto al giorno. Ma questa è una cifra che, se poi si aggira intorno ai 2 milioni, se facciamo un calcolo, non è soltanto poi un problema del meridione dell'Italia, ma è anche un problema del nord, quindi come dire, abbastanza generalizzato. Adesso ci fermiamo per la viabilità, poi subito dopo ci ritroveremo, parleremo della vicenda del Teatro Eliseo di Roma. Stamattina c'è stato lo sfratto e ne parleremo con Luca Barbareschi, che a quanto pare prenderà in mano questo teatro. Torneremo sulla vicenda del Consiglio di Amministrazione della RAI, che ha votato il ricorso di fatto contro il suo azionista per i tagli stabiliti dall'esecutivo. Lo faremo con uno dei consiglieri, anzi in realtà dimissionaria, proprio per questo motivo, Luisa Todini. Ci occuperemo anche delle elezioni in Calabria ed in Emilia Romagna. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il giorno dopo la sentenza di Cassazione nel processo Eternit, il lutto cittadino a Casale Monferrato, ed è di pochi istanti fa la notizia che nell'inchiesta bis, quella dove si procede per omicidio volontario, sono stati aggiunti una cinquantina di casi di morte in più oltre ai primi 213. Anche da questo lato vedremo come andranno a finire le cose. Renzi si rivolge ai sindacati, loro in piazza, noi creiamo lavoro, la CISL, non abbiamo fatto sciopero neanche con Monti, la UIL dice pronti a revocare se si riapre il dialogo. Il 16% delle famiglie non è in grado di garantire ai figli due pasti dignitosi al giorno, così l'UNICEF. Addio ufficiale di Fernando Alonso, che lascia la Ferrari e ringrazia tutti i tifosi. Alla guida della rossa arriva Vettel. Il sogno della mia vita, dice. E passiamo alle vicende della RAI. È di questa mattina la notizia, per il momento piuttosto vaga in realtà, data dal viceministro dell'economia Enrico Morando, che dice che è allo studio quando la legge di stabilità approderà al Senato e quando ci sarà insomma l'emendamento del governo, qualcosa che riguardi anche il canone. Ma al di là di questo vogliamo parlare della vicenda e di quello che è avvenuto ieri, quando il Consiglio di Amministrazione della RAI ha votato a maggioranza, e ne stiamo discutendo anche sulla nostra pagina Facebook, ve la ricordo, www.facebook.com/effettogiorno, ha votato a maggioranza un ricorso contro i tagli stabiliti dal governo, che in questo momento rappresenta il suo azionista nella sostanza, che è lo Stato. Saluto Luisa Todini, che forse da oggi è già ex consigliere d'amministrazione della RAI. Todini, buongiorno. Sì, buongiorno, da ieri. Da ieri è già ex consigliere d'amministrazione della RAI. Avendo dato le mie dimissioni durante il Consiglio. Durante il Consiglio, proprio per questo motivo. Sì, dunque le mie, come forse avrete seguito dalla stampa, nel momento in cui sono stata indicata a Presidente delle Poste, avevo annunciato che mi sarei dimessa entro l'autunno per concludere il percorso di quotazione RAI e l'anno imprenditoriale, se vuole, della RAI. Immaginavo quindi che sarei arrivata alla fine dell'autunno, ma quello che è successo ieri mi ha imposto, mi lasci dire, per mia educazione imprenditoriale, non saprei come definirlo, che non si vota contro il proprio azionista che ti chiede di risparmiare. E io non mi sono più sentita così nella fiducia con il resto del consesso consigliare di rimanere all'interno di un consiglio nel momento in cui si vota e si fa un ricorso contro il proprio azionista che ti indica una strada per risparmiare. Mi faccia capire una cosa, Todini, vorrei capire come è andata la discussione in consiglio, immagino molto, molto accesa da questo punto di vista. Ma ciò che si discute in consiglio rimane all'interno del consiglio. Sì, le chiedevo solo sui toni. Ma la dialettica è giusta e normale, da tempo si stavano valutando all'interno del consiglio, giustamente una serie anche di audizioni ci sono state con eminenti costituzionalisti, professori di diritto costituzionale e quant'altro, per verificare quali potessero essere gli effetti e anche le prerogative di un eventuale ricorso. Ma al di là del merito o della possibilità che il governo in teoria dal punto di vista giuridico possa aver errato, è proprio una questione di opportunità. Qualsiasi sia il merito giuridico, in questo momento storico in cui si chiedono sacrifici a tutti, in cui lei in una delle prime notizie ha detto che le famiglie non ce la fanno, stiamo chiedendo a tutti di risparmiare e tutti noi stiamo risparmiando tanto, si chiede alla RAI di iniziare un percorso virtuoso di risparmio e il governo chiede di farlo, indicando tra l'altro in un percorso la quotazione di Rai Way, che proprio ieri mattina è stato un incredibile successo, con un IPO unico in questi sei mesi. Quindi sottolineando quanto quando il management è in compatto, coeso, si racconta una bella storia, i fondi internazionali investono in Italia, perché questo è successo in Rai Way, chiusa parentesi, il pomeriggio si va a votare un ricorso contro l'azionista. Questo per me non era... Ultima domanda che le voglio fare, i margini, immagino che secondo lei i margini per fare i tagli in Rai ci sono? Guardi, anche nell'azienda migliore e più efficiente ci sono margini per tagliare, in Rai ha maggior ragione, ma tagliare non vuol dire eliminare così d'amblè posti di lavoro o quant'altro, eliminare gli sprechi. La riforma importante sull'accorpamento dell'informazione è una riforma di efficienza interna, non di diminuzione del pluralismo come si vuole far passare. È stato fatto l'esempio in questi giorni dei 5 microfoni che seguono il Premier in Australia. Ne basta uno/due di microfoni, poi in studio ognuno fa il suo commento, politico, editoriale o quant'altro, ma le immagini di Renzi, sopra, sotto, destra, sinistra, quelle sono. E quindi questo si deve evitare. È soltanto un esempio rispetto a tutti quelli che possono essere all'interno delle sedi sparse per l'Italia o di ciascun ufficio, insomma. La RAI è grande eccellenza e quindi investiamo sulle eccellenze, non sugli sprechi. Grazie Luisa Todini, a questo punto ex consigliere d'amministrazione della RAI, e le auguro buona giornata e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata Luca Barbareschi, salve, benvenuto. Buongiorno, grazie. Attore, grazie, regista, insomma, altre mille cose, e proprietario del Teatro Eliseo, abbiamo capito bene? Sì, ho preso una quota dell'Eliseo insieme al dottor Eleuterio, dottor Marchini, dottor Corsi, Francesco Corsi, che sono gli azionisti. E come Casanova Teatro, che è una parte della Casanova Multimedia S.p.A., la gestione ovviamente anche per i prossimi 12 anni rinnovabili dell'Eliseo. Questa è una grande avventura. Stamattina c'è stato lo sfratto sostanzialmente dei precedenti proprietari, no? Ne è stato l'altro? Era un atto dovuto, nel senso che era l'11° sfratto irrevocabile. A cui l'undicesimo irrevocabile, sì, non è male. Sì, sì, questo paese così, però insomma questi anni hanno tentato in tutte le maniere di salvare una situazione che era molto grave del Teatro Eliseo, debitoria e non funzionante, insomma catastrofica. Tra l'altro ci tengo a precisare, perché ho visto delle ansa scorrette, non è vero che ci sono 60 dipendenti, ma sono poi 12 dipendenti che noi stiamo verificando la possibilità di reintegrare, perché ovviamente è mio interesse dare continuità al Eliseo, ovviamente con un profilo alto, ridando dignità a quello che è il più grande teatro italiano e con una storia straordinaria. Quindi l'obiettivo è mantenere il livello occupazionale, insomma, come si dice. Insomma, io spero di implementarlo, sinceramente. Io in questi anni, in tutte le attività, diciamo, imprenditoriali che ho fatto, dall'informatica, quando avevo Glam Interactive, che è stata una bellissima azienda che è durata tanti anni, o Casanova Multimedia, che quest'anno compie 30 anni, insieme ai miei 40 anni di attività teatrale, cinematografica e televisiva, è quella di crescere, per cui l'Eliseo avrà bisogno di più degli attuali 12 impiegati, perché diventando un teatro di produzione, di riferimento per la capitale, mi auguro di arrivare a offrire molti posti di lavoro. Allora, noi lo speriamo. Intanto, io so che lei non vuole entrare in polemica con Monaci, il detentore del 34%, insomma, della quota, che a questo punto lei, la società della quale fate parte, non ha, però le devo dire, le agenzie battono dichiarazioni nelle quali dice: i fascisti nel breve periodo vincono ancora, questo è un atto fascista. È un atto, con questo insulto, il dottor Monaci. Monaci ha già perso una causa con me 12 anni fa e la perderà ancora, verrà querelato per qualsiasi sciocchezza esca dalla sua bocca. Mi fa molta tenerezza, forse un po' senile, questo atteggiamento, che lui parli di attacco fascista, quando abbiamo fatto, come ha letto la mia ansa, tutte queste cose concordate con il Ministero, con l'assessore alla cultura. Non mi sembra siano dei fascisti, sono delle persone di ottimo livello che hanno seguito il mio progetto e che hanno assolutamente sposato, per cui non c'è nessuna, non so come dire, nessun attentato. Quello che Monaci non fa è non risponde ai suoi milioni e milioni di debiti che ha con la SIAE, con centinaia di persone nel teatro italiano, attori, registi, autori, non so, c'è una fila infinita. Il suo 34% non l'ha più Monaci, perché esiste uno statuto in cui uno, prima di intestare a un trust che è nelle Gershwin Island, per cui un trust non è anche italiano, è un paradiso fiscale, deve fare una call chiedendo agli altri azionisti se ha una prelazione, no? Nel momento che tu fai un atto che è rituale, perdi ogni tuo potere, per cui potrà rimanere, non so, ci saranno altri, credo, atti legali che poi ci riserveremo di fare nei confronti della proprietà, ma questa è la proprietà. Per quel che riguarda la gestione Monaci, si commenta da sola, per cui non c'è nessun attentato. Noi vedrete quali saranno le compagnie che verranno ospiti, abbiamo già degli accordi con la Pergola, con cui faremo delle cose eccellenti, con Gabriele Lavia, con Orsini, con una serie di giovani compagnie che, e soprattutto con la nuova compagnia del Teatro Eliseo che andremo a creare, perché sarà un teatro stabile, fermo, per cui insomma sono tante cose bellissime, nonché con teatri internazionali, con accordi che ho già preso con Royal Court, con teatri di tutto il mondo con cui ho lavorato tutta la vita, per cui è così. Allora, in bocca al lupo Luca Barbareschi, dunque alla guida del nuovo Teatro Eliseo. Dopo lo sfratto di oggi, noi cambiamo nuovamente argomento e parliamo di migranti, mentre non si arresta il flusso, mentre si litiga sul comando di Triton. Sentiamo. Mentre sta per volgere al termine entro l'anno l'operazione Mare Nostrum, fra polemiche e inquietudini per la convivenza finora difficile con l'operazione europea Triton, in una manciata di ore nel canale di Sicilia sono state soccorse più di 1000 persone. Due i soccorsi della Guardia Costiera: a Porto Empedocle sta per attraccare una nave con a bordo 283 persone, a Pozzallo un'altra con 450 migranti. Si è conclusa poi ad Augusta l'operazione di soccorso, questa volta della Marina Militare, nei confronti di una nave mercantile in avaria con a bordo oltre 600 persone, tra cui donne e bambini anche di pochi mesi. Intanto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha detto ieri che il nuovo obiettivo dell'Italia è creare avamposti dell'Unione Europea in Africa per puntare, ha detto, ad una più equa distribuzione dei migranti fra i diversi paesi europei. Ma forse il ministro si dovrebbe leggere i dati appena pubblicati del rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014, che dicono che in realtà è stata la Germania a farsi carico del 30% di tutte le domande dei richiedenti asilo e rifugiati. Seguono Francia e Svezia, mentre il nostro paese è solo quinto, con 26.620 richiedenti, il 6% del totale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Lutto cittadino a Casale Monferrato dopo la sentenza di Cassazione nel processo Eternit. Si indaga intanto su altre 50 morti. Renzi ai sindacati, loro in piazza, noi creiamo lavoro. La UIL dice pronti a revocare se si riapre il dialogo. L'amministratore delegato della ST di Terni dice escludiamo ogni smantellamento, lo fa con una lettera fissa in fabbrica. Il 16% delle famiglie non è in grado di garantire ai figli due pasti dignitosi, dice l'UNICEF. Segnali di ripartenza dal mercato immobiliare: nel terzo trimestre dell'anno le compravendite crescono del 3,6%. La borsa. Borse in diretta. Ed è giornata negativa quella di oggi, meno 1,29% sul FTSE MIB, meno 1,24% sul FTSE OCR, negative anche le altre piazze finanziarie europee. Va un pochino meglio Francoforte, che cede lo 0,65%, Londra lo 0,6%, Parigi giù dell'1,12%, e ci sono in positivo in questo momento sul listino milanese sostanzialmente solo 4-5 titoli: Saipem, Iux, Tenaris, Prismian e Ferragamo. Isabella Tasso, Radio Corriere sulle 24 ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai va male la borsa? Sì, dopo tre giorni positivi è tornato il segno negativo sia a Piazza Affari che sulle altre borse europee. Le borse erano partite poco mosse e dopo hanno ampliato i ribassi. A pesare c'è in particolare il timore di un rallentamento dell'eurozona che nell'ultima parte dell'anno. Questo alla luce dei dati usciti stamattina sul settore manifatturiero, che hanno frenato in Germania e in Francia. Nel pomeriggio si vedrà Wall Street con i dati sull'inflazione americana. Dicevi in positivo pochi titoli, Saipem fa +2.6, è sostenuta dal balzo della concorrente CGG che alla Borsa di Parigi fa +22% dopo che ha ricevuto un'offerta di acquisto dal gruppo Technip. A Milano sono molto deboli i bancari, Popolare Emilia Romagna perde il 3.7%, registra la peggiore performance, seguita da BPM -3.5%, Banco Popolare -3.3%. Grazie Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Parliamo di elezioni adesso, stasera a Bologna, domani a Cosenza. Renzi concluderà personalmente la campagna elettorale del PD per il mini test regionale di domenica tra Emilia Romagna e Calabria. 5 i candidati nella sfida appunto in Calabria, 6 in Emilia Romagna, dove si gioca una singolare sfida a distanza tra i due Matteo, Renzi e Salvini, che è stato in questi giorni, come sapete, a Bologna e dintorni, ha spinto moltissimo per l'elezione, quantomeno per il secondo posto, del suo pupillo Alan Fabbri. Ieri su Sky TG24 l'unico confronto tra i quattro favoriti in Emilia, oltre a Fabbri, Bonaccini, ex bersaniano e poi renziano, vincitore delle primarie, al posto di Richetti, ritiratosi dopo essere stato sfiorato dallo scandalo delle spese pazze alla regione. In TV anche Giulia Gibertoni del Movimento 5 Stelle e Alessandro Londoni di Nuovo Centrodestra UDC, mentre non c'erano gli altri due candidati. Dunque sentiamo un po' di parole di questi candidati che sono intervenuti ieri a Sky TG24. Stipendio e non prenderemo nessuno dei consiglieri del Movimento 5 Stelle più di 5.000 euro lordi, ho già garantito firmando. Certamente noi abbiamo sempre rinunciato ai rimborsi elettorali, come continueremo a farlo. Io anzi proporrei a tutti i partiti di congelare anche le indennità di fine mandato per i consiglieri che adesso sono indagati. Io me lo sono già ridotto l'indennità. Dopodiché quella quota minima di rimborsi elettorali che è rimasta dopo che il governo Monti, giustamente dopo diversi scandali, intervenne, ho già detto che se divento presidente noi azzereremo del tutto i rimborsi elettorali, quindi non ci sarà più nemmeno uno, non ci saranno più auto blu. A un volontario come si fa a ridurre lo stipendio? Non ce l'ha, io non prendo stipendio dalla politica, quindi l'ho detto prima, io addirittura sto pagando per fare la campagna elettorale, quindi io sono per dare zero alla politica. In questo momento bisogna essere capaci di fare piuttosto spazi per la comunicazione politica. Noi vogliamo portare avanti in Consiglio regionale una legge organica che riduca il numero dei consiglieri da 50 a 40, che vada ad abolire appunto i vitalizi e che riduca anche le indennità dei consiglieri regionali, ma non ci fermeremo qui. Il consiglio regionale è solo la punta di un iceberg di stipendi che questa regione mantiene. Considerate, lo riporto sempre come esempio, che il direttore generale dell'USL di Ferrara percepisce 350.000 euro lordi all'anno per tagliare i nostri ospedali. Ovviamente su queste elezioni in Emilia-Romagna quello che peserà sarà l'affluenza e il risultato che Bonaccini riuscirà ad ottenere. Berlusconi sembra puntare di più, forse per questo, sulla Calabria, dove sarà stasera per sostenere la candidata di Forza Italia e Fratelli d'Italia, Wanda Ferro. Per il PD e il centrosinistra corre invece Mario Olivero, Nino D'Ascola per l'UDC, Cono Cantelmi per i 5 Stelle e Domenico Gattuso per l'Altra Italia Tsipras. Questo è il quadro delle elezioni, naturalmente ci torneremo domani e ampi approfondimenti quando avremo i risultati. Parliamo adesso di un'operazione antimafia. Questa mattina all'alba i carabinieri della provincia di Catania hanno portato a termine appunto un'operazione nei confronti di 23 indagati per associazione mafiosa, estorsione illecita, concorrenza e intestazione fittizia dei beni. Al centro delle indagini del ROS è l'infiltrazione di Cosa Nostra nei settori dell'edilizia e della grande distribuzione alimentare, ma anche dei trasporti marittimi e terrestri. In particolare su questi, sull'autotrasporto, ed è questo il punto interessante, su questo settore che gli investigatori si sono concentrati di più. In manette anche due dei fondatori del Partito degli Autotrasportatori, come racconta Mario Parente, comandante del ROS, al microfono di Cristina Carpinelli. Nell'ambito dei trasporti in particolare è stato accertato il ruolo centrale assunto nel tempo da Vincenzo Ercolano, che appartiene a una delle famiglie mafiose etnie più importanti, e nel contempo anche le alleanze strette nel settore con imprenditori collegati a Cosa Nostra Agrigentina e nel palermitano con i Pastoia di Belmonte Mezzagno, famiglia molto vicina in passato a Bernardo Provenzano. Diciamo che tra gli affari illeciti oggetto di maggiori investigazioni figura soprattutto l'aspetto dei trasporti, in particolare ad esempio la percezione dei cosiddetti eco bonus, che è quell'incentivo economico che era stato introdotto nel 2002 per innovare e sviluppare la catena logistica nei trasporti. Infatti in tale contesto due imprenditori affiliati all'organizzazione mafiosa, entrambi destinatari del provvedimento restrittivo, proprio per accedere con corsie preferenziali a questi incentivi, nel 2008 avevano fondato addirittura un partito, il Partito Nazionale degli Autotrasportatori, intessendo rapporti con i più alti livelli anche della politica regionale dell'epoca. Un paio di aggiornamenti ancora dalla legge di stabilità. Innanzitutto uno appena battuto dalle agenzie, perché la Commissione Bilancio ha dato il via libera all'aumento da 250 a 400 milioni di euro del fondo per la non autosufficienza, fondo che comprende gli stanziamenti per la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, per il 2015. I 150 milioni in più arrivano dal fondo per la famiglia, che passa da 298 a 148 milioni, e dal 2016 il fondo resta a 250 milioni. Sono emendamenti approvati come riformulati dal relatore. Ma c'è un altro punto interessante: è arrivato un emendamento dell'esecutivo, del governo, questa mattina per portare, è una battaglia che anche gli editori stanno portando avanti, per portare l'IVA sugli ebook, sui libri elettronici, al 4% dall'attuale 22%, equiparandola dunque a quella dei libri normali. Su questo fronte potrebbero crearsi dei problemi con Bruxelles, la Francia lo ha fatto ed è andata in procedura di infrazione, ma evidentemente il governo ha deciso che ne valesse la pena. È una misura che costa intorno, stando almeno alle indicazioni che ci sono in questo momento, intorno ai 7 milioni e mezzo di euro. Vi avevamo promesso che avremmo sentito il sindaco di Casale Monferrato. Ebbene, in questo momento molto semplicemente non ci risponde, probabilmente sarà naturalmente impegnata nelle manifestazioni in queste ore convulse che hanno seguito la sentenza della Cassazione che ha stabilito appunto la prescrizione. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ultimo aggiornamento ancora su Eternit. Viene battuta dalle agenzie la notizia che la Procura di Torino ha chiuso formalmente l'inchiesta Eternit Bis, nella quale è indagato l'imprenditore svizzero Stefan Schmidheini. Si procede per omicidio volontario continuato. Questo dunque l'altro filone d'inchiesta. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano. Sono qui in Italia per qualche giorno, Mario Platero. Tempesta di neve a New York, devo dire molto anticipata. In genere in questa stagione la neve proprio non c'è, ma soprattutto nella regione settentrionale dello stato di New York, quella vicino ai laghi, nella regione di Buffalo. Per intenderci, la situazione è disastrosa, ci sono quasi 2 metri di neve che poi col vento si sono accumulati, bloccando addirittura delle case, delle macchine, nelle autostrade, persone che hanno passato la notte, addirittura 2 notti bloccati in autostrada. I servizi di emergenza non riescono a raggiungerli, 7 morti, il governatore Andrew Cuomo, la situazione peggiorerà prima di migliorare. Insomma, se l'inverno, e non siamo ancora in inverno, parte così, non voglio pensare cosa sarà il resto dei mesi più difficili, gennaio e febbraio. Ma oggi voglio parlarvi d'altro, vi terrò informato, queste sono poi notizie di cronaca. Voglio parlarvi di un tema di fondo. Ieri vi ho ricordato che la famiglia di Bob Marley ha fatto un accordo con un fondo di private equity per cedere il marchio Marley Natural, Bob Marley era un grande fumatore di marijuana, a un fondo di private equity che vuole sfruttare la legalizzazione della marijuana commercialmente. E dunque ci vuole un brand, ci vuole un nome. E che cosa hanno scelto? Il nome più riconosciuto, il nome più conosciuto nel mondo, Marley Natural, appunto. To realize more fully in the world the many benefits of cannabis for the mind, body and spirit. Make way for the positive day. Il dibattito è serrato perché dopo le elezioni del 4